Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati, eccoci ed eccovi di nuovo qua su Radio Wombat. Oggi lunedì 13 gennaio 2025, bene sì, siamo nel nuovo anno, ma lo eravamo già settimana scorsa, ma ripetiamolo perché magari ancora nessuno ci si è ben abituata, compresa me ovviamente. E eccomi qua, allora sono Addu, come sempre lunedì alle 19 qui su Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, botanica, giardinaggio, libri come quest'oggi e chi più ne ha più ne metta. E oggi quindi continuo con l'audiolibro già iniziato ormai molto tempo fa, questa quindi è la quarta puntata della rivoluzione del filo di paglia, Masanobu Fukuoka. E il tappetino che userò è fatto da Nebula Breeze, una compilation che si chiama Hiss and Strike. Molto molto piacevole, molto carina e direi che iniziamo subito e ve la faccio sentire subito. Quindi i contatti della radio, radiowombat.net, il nostro sito da cui potete ascoltarci in streaming, ma se volete provare ad ascoltarci in altro modo, un modo un po' più divertente, forse con le onde AM alle 13.59 nell'area fiorentina. Infine, se volete provare a chiacchierare con me qui in diretta, anzi non in diretta perché sarò registrata, però davvero non esitate a scrivere tanto i commenti e le cose che scrivete, posso comunque leggerle, quindi appunto lo fate tramite il pad, direttawombat.vado.li è il link per aprire il pad, trovate lo stesso link comunque anche dal sito nella pagina contatti e nella pagina dello streaming, quindi non c'è modo di sbagliarsi. Allora iniziamo quindi con la quarta puntata dell'audiolibro, del libro appunto La rivoluzione del filo di paglia, Masanobu Fukuoka. L'agricoltura commerciale fallirà. Quando comparve per la prima volta il concetto dell'agricoltura commerciale, io lo contestai. L'agricoltura commerciale in Giappone non dà utili al contadino. Fra i commercianti la regola è che se un articolo che all'origine costa un dato prezzo viene ulteriormente manipolato, si aggiunge un costo in più quando l'articolo viene venduto. Ma nell'agricoltura giapponese le cose non sono così semplici. Fertilizzanti, mangimi, attrezzature e sostanze chimiche vengono acquistati all'estero e dati a dati prezzi, che non si sa quale sarà il loro costo al chilo quando questi prodotti importati verranno utilizzati. È a completa discrezione del commerciante di fissare i prezzi. E poiché anche i prezzi di mercato dei suoi prodotti sono fissati da altri, il reddito del contadino è alla mercé di forze al di là del suo controllo. In generale, l'agricoltura commerciale è un affare rischioso. Il contadino farebbe molto meglio a coltivare gli alimenti di cui ha bisogno senza pensare a far soldi. Se si semina un chicco di riso, diventa più di 1000 chicchi di riso. Una sola fila di rape basta a fare conserve per tutto l'inverno. Seguendo questa linea di pensiero, si avrà abbastanza da mangiare, più che abbastanza, e senza fatica. Ma se invece si decide di provare a far soldi, si sale sul vagone del profitto che corre via portandoci con sé. Ultimamente mi sono messo a pensare alla gallina bianca livornese. Siccome la varietà migliorata di livornese bianca fa l'uovo per più di 200 giorni l'anno, allevarla per guadagno è considerato un buon affare. Quando sono allevate commercialmente, queste galline vengono recluse in gabbiette messe in lunghe file simili a celle di un penitenziario e per tutta la vita le loro zampe non possono mai toccare terra. Le malattie sono frequenti e i poveri pennuti vengono rimpinzati di antibiotici e alimentati con una dieta bilanciata da vitamine e ormoni. Si sente dire che le galline locali, che sono state conservate da tempi molto antichi, le marroni e nere Shamo e Chabo, possiedono solo la metà della capacità produttiva di uova. Di conseguenza, questi uccelli sono sempre di più scomparsi dal Giappone. Io ho lasciato andare due galline e un gallo perché corressero liberi e selvaggi sulle pendici del monte e dopo un anno erano in 24. Quando sembrava che facessero poche uova, le galline locali erano occupate a tirar su quei pulcini. Nel primo anno la livornese ha un'efficienza di deposizione molto maggiore delle galline locali, ma dopo un anno la bianca è esaurita e viene messa da parte, mentre la unica Shamo da cui si è cominciato si è trasformata in 20 pennuti pieni di salute che corrono qua e là sotto le piante da frutta. Inoltre, le livornesi bianche depongono bene perché sono alimentate con mangimi arricchiti artificialmente, che vengono importati dall'estero e che si devono comprare dai commercianti. Le galline locali razzolano in giro e si cibano liberamente di semi e insetti nella zona, deponendo uova deliziose e naturali. Chi pensa che la verdura commercializzata faccia parte della natura è sulla via di grosse sorprese. Queste verdure sono un intruglio acquoso di azoto, fosforo e potassio, con un leggero aiuto da parte del seme. Ed è proprio questo il sapore che hanno. E le uova di gallina che si trovano sul mercato, si possono chiamare uova se fa piacere, sono solo una combinazione di mangimi sintetici, sostanze chimiche e ormoni. Queste uova non sono un alimento naturale, ma un prodotto sintetico artificiale che ha solo la forma dell'uovo. L'agricoltore che produce verdure e uova di questo genere, io lo chiamo un industriale. Ora, quando si parla di industria, bisogna fare delle acrobazie di immaginazione se si vogliono realizzare dei guadagni. Dato che l'agricoltore industriale, se non fa soldi, è come un commerciante che non sa fare i conti, un personaggio del genere è considerato un ingenuo dall'altra gente e i suoi guadagni sono assorbiti da politici e commercianti. Nei tempi antichi c'erano guerrieri, contadini, artigiani e mercanti. L'agricoltura era considerata più vicina all'origine delle cose del commercio o dell'artigianato. Il contadino si diceva che fosse il coppiere degli dèi. Era sempre capace di farcela in un modo o nell'altro ed avere sempre abbastanza da mangiare. Ma adesso c'è tutta questa febbre di denaro. Si coltivano prodotti di ultramoda, come uva da tavola, pomodori e meloni. Fiori e frutta vengono prodotti in serre fuori stagione. È stato introdotto l'allevamento dei pesci e si allevano bovini da carne perché i profitti siano alti. Questa mania mostra chiaramente che succede quando l'agricoltura esce dalla sua logica e viene sottoposta al rullo compressore dell'economia. Le fluttuazioni dei prezzi sono violente, ci sono i guadagni, ma ci sono anche le perdite. Il fallimento è inevitabile. L'agricoltura giapponese ha perduto di vista la sua direzione ed è diventata instabile. Ha deviato dai principi fondamentali della coltivazione della terra e è diventata un'attività per uomini d'affari. Ricerca a beneficio di chi? I primi tempi, quando aveva appena cominciato la semina diretta del riso e dei cereali invernali, pensavo di mietere con un falcetto a mano e così credetti che fosse più conveniente sistemare i semi in file irregolari. Dopo molti tentativi, ingegnandomi da dilettante, fabbricai un attrezzo manuale per seminare. Pensando che questo strumento avrebbe potuto avere un'utilità pratica per altri contadini, lo portai all'incaricato al centro di prove. Mi disse che poiché eravamo in un'epoca di macchine di grandi dimensioni, non poteva perdere tempo col mio gingillino. Subito dopo mi recai da un industriale di macchine agricole. Mi fu detto che una macchina così semplice, per quanto se ne facesse, non poteva essere venduta per più di $3.50 al pezzo. Se producessimo un gingillo come questo, i coltivatori potrebbero cominciare a pensare di non aver bisogno dei trattori che vendiamo per migliaia di dollari. Disse che oggi l'idea è di inventare alla svelta macchine per piantare il riso, venderle subito e il più a lungo possibile, e poi introdurre qualcosa di più recente. Invece di piccoli trattori, volevano passare a modelli di maggiori dimensioni e il mio attrezzo era, ai loro occhi, un passo indietro. Per venire incontro alle richieste dei tempi, si riversano risorse in ricerche sempre più inutili e a tutt'oggi il mio brevetto è ancora nel cassetto. La stessa cosa succede coi fertilizzanti e le sostanze chimiche. Invece di sviluppare fertilizzanti pensando al contadino, si tende a sviluppare qualsiasi novità per fare soldi. Quando i tecnici lasciano i propri impieghi nei centri sperimentali, passano direttamente alle dipendenze delle grandi industrie chimiche. Recentemente ho parlato con Asada, un tecnico funzionario del Ministero dell'Agricoltura e Forense, e mi ha raccontato una storia interessante. Gli ortaggi coltivati in serre sono estremamente insipidi. Sentendo che le melanzane spedite d'inverno non hanno vitamine e i cetrioli sono senza sapore, egli ha indagato in materia e ne ha scoperto la ragione. Alcuni dei raggi solari non possono penetrare attraverso la copertura di vinile e vetro in cui gli ortaggi vengono fatti crescere. Perciò Le sue indagini si sono concentrate sul sistema di illuminazione delle sedie. La domanda fondamentale a questo proposito è se sia necessario o meno per degli esseri umani mangiare melanzane e cetrioli durante l'inverno. Ma mettendo da parte questo punto, la sola ragione per cui vengono coltivati in questa stagione è perché si possono vendere a buon prezzo. Qualcuno sviluppa una tecnica per coltivarli e dopo un po' di tempo si scopre che questa verdura non ha nessun valore nutritivo. Allora, il tecnico pensa che se c'è una perdita in sostanze nutritive, ci deve pure essere una maniera per evitare questa perdita. Siccome si crede che il problema stia nel sistema di illuminazione, si incominciano a fare ricerche sulla rifrazione della luce. Si pensa che tutto andrà a posto se si riuscirà a produrre una melanzana in serra con le vitamine dentro. Mi è stato detto che ci sono dei tecnici che dedicano la propria vita intera a questo tipo di ricerche. Naturalmente, dato che sono stati necessari tutti questi grandi sforzi e risorse per produrre la melanzana e l'ortaggio in questione che viene dichiarato di alto valore nutritivo, gli viene appiccicato un prezzo ancora più alto e si vende bene. Si rende e si vende, non ci può essere nulla di male in questo. Per quanto ci si provi, non si riesce a portare dei miglioramenti alla frutta coltivata naturalmente. I prodotti coltivati in modo innaturale soddisfano i desideri superficiali della gente, ma indeboliscono il corpo umano e ne alterano la chimica in modo tale da renderlo dipendente da tali alimenti. Quando succede questo, diventano necessari i supplementi vitaminici e i farmaci. Questa situazione crea solo fatica per il coltivatore e sofferenze per il consumatore. Qual è il cibo adatto per l'uomo? L'altro giorno qualcuno della compagnia televisiva NHK è venuto a chiedermi di dire qualcosa sul sapore degli alimenti naturali. Abbiamo parlato e poi gli ho chiesto di fare un confronto fra le uova di gallina che si comprano giù in cooperativa e quelle delle galline che scorrazzano libere su nel frutteto. Trovò che i tuorli delle uova deposti dalle galline confinate nel tipico campo di concentramento per polli erano molli e acquosi e il loro colore era giallino pallido. Osservò che i tuorli delle uova deposte dalle galline che vivono libere sul monte erano compatti, elastici e di color arancio brillante. Quando il vecchio che gestisce il ristorante sushi in città assaggiò una di queste uova naturali, disse che era un vero uovo, proprio come ai vecchi tempi, e si rallegrò come fosse stato un tesoro prezioso. Ancora, su nel mandarineto, ci sono molte verdure diverse che crescono fra le erbacce e il trifoglio. Rape, bardana, cetrioli e zucche, arachidi, carote, crisantemi, mangerecci, patate, cipolle, senape, cavoli, varietà diverse di fagioli e molte altre erbe e verdure vengono su tutte insieme. La conversazione si spostò sul fatto se o meno questi ortaggi, che erano cresciuti in modo semiselvatico, avessero un sapore migliore di quelli coltivati nell'orto o in pieno campo con l'aiuto di fertilizzanti chimici. Quando li confrontammo, il sapore era completamente diverso e constatammo che la verdura selvatica aveva un gusto più ricco. Dissi al giornalista che quando gli ortaggi sono coltivati in un campo preparato con concimi chimici, vengono riforniti di azoto, fosforo e potassio. Ma quando crescono con una copertura naturale in un suolo naturalmente ricco di sostanza organica, ricevono una dieta più bilanciata di sostanze nutritive. Una grande varietà di erbacce ed erbe significa che molti e diversi elementi nutritivi e micronutritivi essenziali sono disponibili per gli ortaggi. Le piante che crescono in un suolo così equilibrato hanno un sapore più penetrante. Erbe commestibili e verdure selvatiche, piante che crescono sulla montagna e nei prati, hanno un valore nutritivo molto alto e sono anche adatte come medicinali. Quando si raccolgono e si mangiano le 7 erbe di primavera, l'umore si ingentilisce. E qui leggo una nota a fondo pagina. Le 7 erbe di primavera sono watercress, ovvero crescione, shepherd's purse, borsa pastore, ovvero capsella bursa pastoris, wild turnip, cioè rapa selvatica, brassica rapa turnip, cottonweed, diotis candidissima, chickweed, centocchi o erba gallinella, stellaria media, wild radish, raperonzolo, ovvero rafanus rafanistrum, e beanettle, ovvero ortica. Riprendo quindi. E quando si mangiano i germogli di felce, lo smunda e la borsa pastore, si diventa calmi. Per calmare il senso di irrequietezza e impazienza, la borsa pastore è la migliore di tutte. Dicono che se i bambini mangiano la borsa pastore, gemme di salice o insetti che vivono negli alberi, ciò curerà i violenti accessi di pianto e nei vecchi tempi ai bambini venivano spesso dati da mangiare. Il daikon, ovvero il ramolaccio, ha per antenata la pianta chiamata nazuna, la borsa pastore appunto, e questa parola nazuna è imparentata con la parola nagomu, che significa farsi calmare. Il daikon è l'erba che calma la nostra disposizione di animo. Fra gli alimenti che si trovano allo stato selvatico, si dimenticano spesso gli insetti. Durante la guerra, nel periodo in cui lavoravo al centro ricerche, mi fu assegnato il compito di stabilire quali insetti nel sud-est asiatico potessero essere commestibili. Quando analizzai questa materia, fui sorpreso nello scoprire che quasi ogni insetto è commestibile. Per esempio, nessuno crederebbe che i pidocchi o le mosche possano servire a qualcosa, ma i pidocchi, macinati e mangiati insieme ai cereali invernali, sono un rimedio per l'epilessia e le mosche per il congelamento. Tutte le larve di insetti sono abbastanza commestibili, ma devono essere vive. Studiando i vecchi testi, trovai storie che parlavano di ghiottonerie, preparate con larve di latrina, e il sapore del noto baco da seta si diceva fosse squisito e superasse ogni confronto. Anche le falene, se prima si scuote la polvere delle loro ali, sono molto gustose. Così, sia dal punto di vista del sapore, ma anche da quello della salute, molte cose che la gente considera repellenti sono in realtà piuttosto gustose e anche adatte all'organismo umano. Gli ortaggi che sono biologicamente più vicini ai loro antenati selvatici hanno il sapore migliore e il valore alimentare più alto. Per esempio, nella famiglia delle Gigliacee che comprende il mira, l'aglio, il porro cinese, la cipolla verde e la cipolla perla, ovvero Allium margaritaceum, e la cipolla a bulbo, il nira e il porro cinese hanno il valore nutritivo più alto. Sono buone come piante medicinali e utili anche come tonici per un benessere generale. Ciò nonostante, per la maggior parte della gente, le varietà più domestiche, come la cipolla verde e la cipolla a bulbo, sono considerate quelle col sapore migliore. Per qualche ragione, ai moderni piace il sapore degli ortaggi che hanno abbandonato la loro condizione selvatica. Una simile preferenza di gusti si manifesta nei cibi animali. Mangiare uccelli selvatici fa molto meglio all'organismo del pollame domestico, come galline e anatre. Eppure questi uccelli, allevati in un ambiente ben lontano dal loro naturale, sono considerati di ottimo gusto e venduti a prezzi alti. Il latte di capra ha un valore alimentare più alto di quello di mucca, ma il latte di mucca è più richiesto. Gli alimenti che sono stati allontanati dalla loro condizione selvatica e quelli coltivati chimicamente o in un ambiente completamente artificiale squilibrano la chimica dell'organismo. Più sbilanciato diventa il nostro organismo e più forte si fa il desiderio di cibi artificiali. Questa situazione è pericolosa per la salute. Dire che quel che si mangia dipende solo dai gusti è fuorviante, perché una dieta innaturale o esotica crea difficoltà sia al contadino che al pescatore. A me sembra che più desideri si hanno e più occorre lavorare per soddisfarli. Alcuni pesci come il popolare tonno e la seriola devono essere pescati in mari lontani, ma le sardine, i pagelli, le passere di mare e altri pesci piccoli possono essere presi in grandi quantità nel mare interno. Dal punto di vista nutritivo, creature che vivono in fiumi e torrenti d'acqua dolce, come le carpe, le chiocciole di stagno, i gamberi d'acqua dolce, sono più adatti per l'organismo di quelli d'acqua salata. Poi vengono i pesci di mare che vivono in acque molto profonde e finalmente i pesci di acque salate molto profonde e di mari lontani. I cibi che si trovano a portata di mano sono i migliori per gli esseri umani e le cose che bisogna faticare molto per ottenere risultano poi le meno salutari di tutte. In altre parole, se uno accetta quel che trova a disposizione, tutto va bene. Se i contadini che vivono in questo villaggio mangiano solo i cibi che si possono coltivare o raccogliere qua, non ci saranno errori. Alla fine, come il gruppo di giovani che abitano nelle capanne su nel frutteto, si constaterà che è più semplice mangiare riso integrale e orzo non perlato, miglio e grano saraceno, insieme alle piante di stagione e agli ortaggi semiselvatici. Si arriva così al cibo migliore, che è saporito e fa bene all'organismo. Se si raccolgono 22 staia inglesi, ovvero circa 590 kg, di riso e 22 di cereali invernali su 1000 metri quadri di un campo come questi, allora ogni campo nutrirà da 5 a 10 persone, investendoci una media di meno di un'ora al giorno di lavoro. Ma se lo stesso campo fosse trasformato in pascolo, o se i cereali fossero dati come mangime al bestiame, solo una persona potrebbe essere mantenuta ogni mille metri quadrati. La carne diventa un cibo di lusso quando per produrla occorre occupare della terra che potrebbe fornire alimenti per il diretto consumo umano. Leggo la nota in fondo alla pagina. Anche se per lo più in Nord America la carne viene prodotta alimentando gli animali con i prodotti dei campi come grano, orzo, mais e soia, ci sono vaste zone di terra che vengono usate al meglio quando sono sottoposte a rotazioni regolari con pascoli o erbai. In Giappone praticamente non esistono terre simili. Quasi tutta la carne deve essere importata dall'estero. Ciò è stato dimostrato. Ogni persona dovrebbe riflettere seriamente sui numerosi problemi che sta provocando con l'indulgere in cibi prodotti a così caro prezzo. La carne e altri alimenti importati sono lussi perché richiedono più energia e risorse degli ortaggi tradizionali e dei cereali prodotti localmente. Ne deriva che chi si limita a una dieta locale semplice ha bisogno di lavorare meno e usare meno terra di chi ha voglia di lussi. Se la gente continua a mangiare carne e alimenti di importazione, entro 10 anni è certo che il Giappone piomberà in una crisi alimentare. Entro 30 anni vi saranno carenze schiaccianti. Da qualche parte è venuta dilagando l'assurda idea che un cambiamento dal riso al pane rappresenterebbe un miglioramento alimentare nella vita quotidiana del popolo giapponese. In realtà non è così. Riso integrale e verdura possono sembrare un vitto rustico, ma dal punto di vista nutritivo è la migliore dieta che esista e mette gli esseri umani in grado di vivere semplicemente e direttamente. Se davvero avremo una crisi alimentare, non sarà provocata dall'insufficienza delle capacità produttive della natura, ma dalla stravaganza dei desideri umani. Una fine pietosa per l'orzo. Quarant'anni fa, in conseguenza della crescente ostilità politica tra gli Stati Uniti e il Giappone, diventò impossibile importare grano dall'America. Ci fu perciò un vasto movimento in tutto il paese che invitava a coltivare grano nei nostri campi. Le varietà americane di frumento usate richiedono un lungo periodo di crescita e maturano finalmente qui in Giappone in piena stagione delle piogge. Anche dopo che il contadino aveva faticato tanto a tirar su le pianticelle, il grano spesso marciva nei campi nel periodo di mietitura. Queste varietà dettero prova di essere di pochissimo affidamento e molto soggette alle malattie. Perciò i contadini non volevano saperne di coltivare il frumento. Quando veniva macinato e tostato alla maniera tradizionale, il gusto era così cattivo che appena messo in bocca il primo boccone bisognava risputarlo. le varietà tradizionali di segale e orzo giapponesi si possono raccogliere in maggio, prima della stagione delle piogge. Perciò sono colture relativamente sicure. Nonostante tutto ciò, i contadini furono costretti a coltivare il grano. Tutti ridevano e dicevano che non c'era niente di peggio che coltivare grano, ma continuarono con pazienza a seguire la politica del governo. Dopo la guerra, il grano americano venne nuovamente importato in grandi quantità e fece cadere il prezzo di quello locale, nel frattempo cresciuto in Giappone. Questo fatto si aggiunse alle molte altre buone ragioni per interrompere questa coltura. Abbandonare il grano, fu lo slogan diffuso in tutto il paese dai responsabili agricoltori del governo e i contadini smisero contenti. Contemporaneamente, per il basso prezzo del frumento importato, il governo incoraggiò gli agricoltori ad abbandonare la coltivazione delle tradizionali produzioni invernali di segale e orzo. Questa politica fu portata avanti e i campi in Giappone vennero lasciati incolti per tutto l'inverno. Circa 10 anni fa, venni scelto a rappresentare la provincia di Eime nel concorso televisivo NHK per l'agricoltore dell'anno. In quell'occasione mi fu chiesto da qualcuno del comitato di selezione: «Signor Fukuoka, perché non smette di coltivare la segale e l'orzo?» Risposi: «La segale e l'orzo sono delle colture facili e coltivandoli in successione col riso possiamo arrivare a produrre la massima quantità di calorie nei campi giapponesi. È per questo che non ci rinuncio». Fu messo in chiaro che non poteva essere nominato agricoltore modello nessuno che cocciutamente insistesse a contraddire le volontà del Ministero dell'Agricoltura. E allora dissi: «Se è questo che impedisce a qualcuno di ricevere l'attestato di agricoltore dell'anno, allora sto meglio senza». Uno dei membri della commissione giudicante mi disse più tardi: «Se dovessi lasciare l'università e mettermi a coltivare io stesso, probabilmente farei come lei e coltiverei riso d'estate e orzo e segale durante l'inverno ogni anno come prima della guerra». Poco dopo questo episodio apparvi in un programma alla televisione NHK in una tavola rotonda con vari professori universitari e in quell'occasione mi venne chiesto nuovamente: «Perché non smetti di coltivare la segale e l'orzo?» Affermai ancora una volta, molto chiaramente, che non li lasciavo per almeno una dozzina di buone ragioni, ciascuna delle quali sufficiente. All'incirca in quel periodo la parola d'ordine per far cessare la coltura dei cereali invernali invitava a una pietosa fine. Cioè, la pratica di coltivare i cereali invernali e il riso in successione doveva morire silenziosamente. Ma fine pietosa è un termine troppo educato e il Ministero dell'Agricoltura in realtà voleva che morisse nel pieno delle forze. Appena mi fu chiaro che il principale scopo del programma era di promuovere una rapida fine della coltivazione dei cereali invernali, lasciandoli per così dire morti lungo la strada, esplosi dall'indignazione. 40 anni fa l'ordine era di coltivare frumento, coltivare grano estero, una derrata inutile e impossibile. Allora fu detto che le varietà giapponesi di segale e orzo non avevano un valore nutritivo altrettanto elevato come il grano americano. I contadini rinunciarono a malincuore a produrre questi cereali tradizionali. Via via che il tenore di vita si alzava, a passi da gigante, venne fuori la parola d'ordine di mangiar carne, uova, bere latte e cambiare il riso con il pane. Grano turco, soia e frumento cominciarono ad essere importati in quantità sempre crescenti. Il grano americano costava poco, perciò la coltivazione dell'orzo e della segale locali venne abbandonata. L'agricoltura giapponese adottò dei provvedimenti che costrinsero i contadini a impiegarsi a metà tempo in città per poter comprare le derrate che era stato detto loro di non coltivare. E adesso è sorta una nuova consapevolezza a proposito della scarsità di risorse alimentari. Di nuovo viene sostenuta l'autosufficienza nella produzione di segale e orzo. Dicono che ci saranno addirittura dei sussidi. Ma non basta rimettersi a coltivare i cereali invernali tradizionali per un paio d'anni per poi abbandonarli ancora. Bisogna instaurare una solida politica agricola. Ma poiché il Ministero dell'Agricoltura non ha la minima idea di quali dovrebbero essere le colture preferenziali, e poiché non comprende il collegamento fra ciò che si coltiva nei campi e la dieta alimentare della gente, una politica agricola efficace rimane impossibile. Se i funzionari del Ministero andassero sulle montagne e nei prati, raccogliessero le 7 erbe di primavera e le 7 erbe d'autunno e le assaggiassero, imparerebbero che cos'è la fonte del nutrimento umano. Leggo la nota in fondo, dunque quindi le 7 erbe d'autunno sono Chinese Bellflower, ovvero campanula cinese, Arrow Root, erba da freccia, erba da fecola, maranta, Thoroughwort, non so proprio come si pronunci, ovvero Eupatorium perfoliatum, oppure Valerianacea, Bush Clover, Lespedizia polistachia, Wild Finger Pink, Dianthus chinensis laciniatus, ovvero garofano della Cina, Japanese Pampagrass, erba giapponese della prateria, ovvero Ginerium argenteum. Qui da noi non sono le stesse, ma certamente a ben cercare nelle vecchie tradizioni locali si potranno trovare forse anche più di 7 erbe d'autunno e di primavera utilizzabili per l'alimentazione. Quindi riprendo. Se poi cercassero ancora più a fondo, scoprirebbero che si può vivere piuttosto bene su alimenti tradizionali locali come il riso, l'orzo e la segale, il grano saraceno e ortaggi, e potrebbero decidere semplicemente che l'agricoltura giapponese non ha bisogno di coltivare altro. Se questo è tutto quello che i contadini devono produrre, l'agricoltura diventa molto facile. Finora il modo di pensare prevalente tra gli economisti moderni è stato quello di considerare sbagliata l'agricoltura su piccola scala, di sussistenza, come se fosse un qualcosa di primitivo da eliminare al più presto. Si afferma che la superficie di ogni campo deve essere aumentata per poter passare all'agricoltura su vasta scala, di stile americano. Questa maniera di pensare non si applica soltanto all'agricoltura. Gli sviluppi in ogni settore si muovono in questa direzione. L'obiettivo è di avere solo poca gente sui campi. Le autorità agricole dicono che meno persone, utilizzando grandi macchine moderne, possono ottenere produzioni maggiori della stessa superficie. Questo viene considerato progresso agricolo. Dopo la guerra, tra il 70 e l'80% della popolazione giapponese era composta di contadini. Presto passò al 50, poi al 30, poi al 20 e adesso la percentuale è attorno al 14. È intenzione del Ministero dell'Agricoltura di raggiungere lo stesso livello dell'Europa o dell'America e tenere nell'agricoltura meno del 10% della popolazione, scoraggiando gli altri. Secondo me l'ideale sarebbe che il 100% della popolazione coltivasse la terra. Ci sono proprio 1000 metri quadri di terra arabile per ogni persona in Giappone. Se a ogni singola persona venissero dati 1000 metri quadrati, cioè mezzo ettaro per una famiglia di 5, sarebbe più che sufficiente al sostentamento della famiglia per tutto l'anno. Se poi venisse praticata l'agricoltura naturale, un contadino avrebbe anche un sacco di tempo per la libertà e le attività sociali nella comunità di villaggio. Io credo che questa sia la strada più diretta per rendere questo paese una terra felice da viverci. quindi siamo e siete sempre su Radio Wombat, questa è Nervature, io sono Addu e siamo alla lettura del libro La rivoluzione del filo di paglia di Masanobu Fukuoka, che non ho ricordato all'inizio, lo faccio ora, biologo vegetale giapponese, ormai purtroppo morto, ma che ha avuto una grande importanza perché è stato il pioniere dell'agricoltura naturale. E questo libro è stato scritto a più riprese, numerosissime, ma fondamentalmente per la maggior parte negli anni 70, quindi tutte le volte sentite oggi riferimenti temporali sappiate che probabilmente si aggirano negli anni 70. Dunque allora andiamo avanti con un altro capitolo. Servi semplicemente la natura e tutto andrà bene. L'esagerazione dei desideri è la causa fondamentale che ha portato il mondo all'attuale situazione. Presto invece che piano, più invece che meno, questo sviluppo, tutto apparente, è legato in modo molto diretto all'incombente collasso della società. In pratica è servito soltanto a separare l'uomo dalla natura. L'umanità deve smettere di lasciarsi andare al desiderio di possessi e guadagni materiali e muoversi invece verso una consapevolezza spirituale. L'agricoltura deve passare dalle grandi attività meccanizzate a piccoli poderi basati soltanto sulla vita stessa. All'esistenza materiale e alla dieta alimentare si dovrebbe dare un posto semplice. Se si fa questo, il lavoro diventa piacevole e lo spazio per il respiro spirituale abbondante. Più il contadino ingrandisce la scala delle sue attività e più il suo corpo e spirito si disperdono e inoltre si allontana da un'esistenza moralmente soddisfacente. Una vita di agricoltura su piccola scala può apparire primitiva, ma vivendola diventa possibile contemplare la grande via. Leggo la nota. La via della luce di coscienza che implica l'attenzione e la cura per le attività ordinarie della vita di ogni giorno. Io credo che se uno entra a fondo nell'ambiente che lo circonda immediatamente e nel piccolo mondo di tutti i giorni in cui vive, il più grande dei mondi si rivelerà. Alla fine dell'anno il contadino di una volta che coltivava un acro, ovvero 4.000 metri quadri, passava i mesi di gennaio, febbraio e marzo a caccia di conigli sui monti. Anche se lo chiamavano povero, aveva non di meno questo genere di libertà. Le vacanze di Capodanno duravano circa 3 mesi. Un po' alla volta cominciarono ad essere ridotte a 2 mesi, un mese, e adesso Capodanno è diventato una vacanza di 3 giorni. La riduzione delle vacanze di Capodanno dimostra come sia diventato occupato il contadino e come abbia perso il suo tranquillo benessere fisico e spirituale. Nell'agricoltura moderna un contadino non ha il tempo di scrivere una poesia o comporre una canzone. L'altro giorno, mentre stavo facendo pulizia nel piccolo tempio del villaggio, fui sorpreso notando delle targhette appese al muro. Togliendo la polvere e osservando le lettere pallide e sbiadite, riuscì a decifrare dozzine di poesie e haiku. Anche in un villaggio piccolo come questo, 20 o 30 persone avevano fatto composizioni haiku e le avevano presentate come offerte. Questo è quanto la gente degli spazi aperti aveva nella sua vita nei vecchi tempi. Alcuni dei versi devono essere vecchi di diversi secoli fa. Perciò erano stati scritti con tutta probabilità da contadini poveri, ma che avevano ancora il tempo di scrivere l'haiku. Adesso non c'è nessuno in questo villaggio che abbia abbastanza tempo per poter scrivere poesie. Durante i freddi mesi d'inverno solo pochi riescono a trovare il tempo per scivolare fuori un giorno o due e andare a caccia di conigli. Nelle ore di svago adesso la televisione è al centro dell'attenzione. E non c'è assolutamente tempo per le semplici attività creative che rendevano ricca la vita quotidiana del contadino. Questo è ciò che intendo quando dico che l'agricoltura è diventata povera e debole spiritualmente e si preoccupa solo dello sviluppo materiale. Lao Tzu, il saggio taoista, dice che una vita completa e buona può essere vissuta solo in un piccolo villaggio. Bodhidharma, il fondatore dello Zen, passò 9 anni vivendo in una grotta senza darsi da fare in giro. Preoccuparsi di far soldi, espandersi, sviluppare, coltivare prodotti per il mercato e spedirli lontano non è un modo di comportarsi degno di un contadino. Essere qua e occuparsi con passione di un piccolo campo in pieno possesso della libertà e pienezza di ogni giorno, quotidianamente. Questa deve essere stata la via originaria dell'agricoltura. Dividere l'esperienza a metà e chiamare una parte fisica e l'altra spirituale è una cosa che rende miopi e disorientati. La gente non vive schiava del cibo. Non possiamo sapere fino in fondo che cos'è il cibo. Sarebbe meglio se la gente smettesse addirittura di pensare al mangiare. Analogalmente, sarebbe bene se la gente smettesse di preoccuparsi di scoprire il vero significato della vita. Non possiamo mai sapere le risposte alle grandi domande spirituali, ma è bene non capire. Siamo nati e stiamo vivendo sulla terra per guardare in faccia direttamente alla realtà del vivere. Vivere non è altro che la conseguenza dell'essere nati. Qualunque cosa la gente mangi per vivere, qualunque cosa la gente creda di dover mangiare per vivere, è solo una cosa pensata. Il mondo che c'è è tale che se la gente mettesse da parte la propria volontà umana e invece si lasciasse guidare dalla natura, non ci sarebbe nessuna ragione per aver paura di morire di fame. Soltanto vivere, qui e ora. Questa è la vera base della vita umana. Quando un'ingenua coscienza scientifica diventa il fondamento dell'esistenza, la gente si mette a vivere come se dipendesse solo dagli amidi, dai grassi o dalle proteine, e le piante dall'azoto, dal fosforo e dal potassio. E gli scienziati, quanto più profondamente indagano la natura, quanto più lontano ricercano, alla fine arrivano solo a rendersi conto come sia perfetta e misteriosa in realtà. Credere che con la ricerca e l'invenzione l'umanità possa creare qualcosa di meglio della natura è un'illusione. Io penso che la gente stia facendo tutti questi sforzi solo per arrivare a conoscere quella che si potrebbe chiamare la vasta incomprensibilità della natura. Per il contadino, nel suo lavoro è lo stesso discorso. Servire la natura e tutto andrà bene. Coltivare la terra una volta era un lavoro sacro. Quando l'umanità cominciò a decadere da questa condizione ideale, venne fuori la moderna agricoltura commerciale. Quando il contadino cominciò a coltivare i suoi raccolti per fare soldi, dimenticò i veri fondamenti dell'agricoltura. Ovviamente il commerciante ha un ruolo da svolgere nella società, ma la glorificazione delle attività commerciali tende ad impedire alla gente di identificare la vera fonte della vita. L'agricoltura, come occupazione che sta dentro la natura, si trova vicino a questa fonte. Molti contadini ignorano la natura anche se vivono e lavorano in ambienti naturali, ma sembra a me che coltivare la terra offra molte opportunità per una maggiore consapevolezza. Se l'autunno porterà pioggia o vento, non posso saperlo, ma so che oggi lavorerò nei campi. Queste sono le parole di una vecchia canzone di campagna. Esprimono la verità dell'agricoltura come maniera di vivere. Non importa come sarà il raccolto, se ci sarà abbastanza da mangiare o meno, nel semplice fatto di gettare il seme e dedicarsi teneramente alle piante sotto la guida della natura. C'è semplicemente la gioia. varie scuole di agricoltura naturale. Non ho una particolare simpatia per la parola lavoro. Gli esseri umani sono i soli animali che devono lavorare e penso che questa sia la cosa più ridicola che esista al mondo. Gli altri animali si guadagnano la vita vivendo, ma la gente lavora come matta, pensando di doverlo fare per sopravvivere. Quanto più grande è il lavoro, tanto maggiore la sfida e tanto più fantastico pensano che sia. Sarebbe bene abbandonare questo modo di pensare e vivere una vita facile e comoda con un sacco di tempo libero. Penso che il modo come gli animali vivono nei tropici, uscendo la mattina e la sera a vedere se c'è qualcosa da mangiare e prendendosi un lungo riposo pomeridiano, debba essere un'esistenza bellissima. Per gli esseri umani una vita di una semplicità simile sarebbe possibile se si lavorasse per produrre direttamente il necessario per i propri bisogni quotidiani. In una vita del genere il lavoro non è lavoro come la gente generalmente intende questa parola, ma semplicemente fare quello che deve essere fatto. Il mio obiettivo è di muovere le cose in questa direzione. E anche l'obiettivo di 7 o 8 giovani che abitano in comunità nelle baracche sul monte e aiutano nei lavori agricoli a giornata. Questi giovani vogliono diventare contadini, fondare nuovi villaggi e comunità e offrire una prova di questo tipo di vita. Vengono al mio podere a imparare le pratiche di coltivazione di cui avranno bisogno per realizzare questo progetto. Se si guarda in giro per il paese, si può notare che sono venute sorgendo recentemente un buon numero di comunità. Sono chiamate assembramenti hippie. Bene, suppongo che possano essere viste anche in quel modo. Ma nel vivere e lavorare insieme, nel cercare la strada per ritornare alla natura, queste persone sono il prototipo del nuovo contadino. Capiscono che diventare solidamente radicati significa vivere con i raccolti della propria terra. Una comunità che non riesce a produrre il proprio cibo non durerà a lungo. Molti di questi giovani vanno in India o al villaggio gandiano che c'è in Francia, passando del tempo in un kibbutz in Israele o visitano comuni sulle montagne o nei deserti del West americano. Ci sono quelli come il gruppo sull'isola Suanose nell'arcipelago Tokara del sud del Giappone, che tentano nuove forme di vita familiare ed sperimentano la vicinanza alle maniere tribali di vivere. Io penso che il movimento di questo pugno di persone stia aprendo la via ad un'epoca migliore. È fra questa gente che l'agricoltura naturale sta rapidamente facendo presa e prendendo slancio adesso. Inoltre, anche vari gruppi religiosi sono arrivati ad adottarla. Nel ricercare la natura essenziale dell'uomo, qualunque sia il modo come si cerca, bisogna cominciare da prendere in considerazione la salute. Il cammino che porta alla giusta consapevolezza comporta il vivere ogni giorno rettamente e il coltivare e mangiare alimenti sani e naturali. Ne consegue che l'agricoltura naturale è per molta gente il miglior modo per cominciare. Io stesso non appartengo a nessun gruppo religioso e discuterò liberamente i miei modi di vedere con chiunque. Non importa molto di fare distinzioni tra cristianesimo, buddismo, shintoismo e le altre religioni. Ma mi interessa il fatto che persone di profonde convinzioni religiose siano attratte al mio podere. Penso che questo sia perché l'agricoltura naturale, a differenza di altri tipi di agricoltura, si basa su una filosofia che va oltre le considerazioni sull'analisi del suolo, il pH e le rese produttive. Qualche tempo fa salì fin quassù questo monte una persona del Centro per l'Agricoltura Organica di Parigi e passammo una giornata a parlare. Sentendo quello che succedeva in Francia, venni a sapere che stavano progettando una conferenza di agricoltura organica su scala internazionale. Come preparazione all'incontro, questo francese stava visitando aziende organiche e naturali in tutto il mondo. Lo portai in giro a vedere il frutteto e poi ci sedemmo davanti a una tazza di tè di Artemisia e parlammo di alcune delle mie osservazioni sugli strani 30 anni appena trascorsi. Prima dissi che se si guarda ai principi dell'agricoltura organica diffusa in Occidente, si troverà che differiscono poco da quelli dell'agricoltura tradizionale dell'Oriente praticata in Cina, Corea e Giappone per molti secoli. Tutti i contadini giapponesi usavano ancora questo tipo di agricoltura nelle epoche Meiji e Taisho e fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era un metodo che accentuava la fondamentale importanza del composto e del riciclaggio di rifiuti umani e animali. La forma di coltivazione era intensiva e comprendeva pratiche come la rotazione, la consociazione e l'uso di concimazioni verdi, ovvero sovesci. Poiché lo spazio era limitato, i campi non venivano mai lasciati a riposo e i programmi di semina e raccolto procedevano con precisione. Tutti i residui organici venivano trasformati in composto e ritornavano ai campi. L'uso del composto era incoraggiato ufficialmente e la ricerca agraria si occupava principalmente delle tecniche di preparazione della materia organica e di compostaggio. Così, fino ai tempi moderni, la principale filosofia agraria giapponese è stata quella di un'agricoltura che collegava gli animali, le colture e gli esseri umani in un corpo unico. Si potrebbe dire che l'agricoltura organica, come praticata in Occidente, prende come proprio punto di partenza questa agricoltura tradizionale dell'Oriente. Andai avanti a dire che fra i metodi di agricoltura naturale se ne potrebbero distinguere due tipi: quella completa e l'agricoltura naturale limitata nel mondo relativo. È il mondo come viene compreso dalla ragione. Se venissi spinto a parlarne in termini buddisti, le due potrebbero essere rispettivamente chiamate agricoltura naturale Mahayana e Hinayana. L'agricoltura naturale Mahayana nasce da sola quando esiste un'unità fra uomo e natura. Si conforma alla natura com'è e alla mente com'è. Deriva dalla convinzione che se la persona abbandona temporaneamente la volontà umana e si lascia guidare dalla natura, questa risponde provvedendo tutto. Per fare un semplice esempio, nell'agricoltura naturale trascendente, il rapporto fra l'umanità e la natura può essere paragonato a un marito e a una moglie uniti in un matrimonio a cui non manca nulla. Il matrimonio non viene concesso dall'alto, né ricevuto in dono. La coppia perfetta viene a formarsi per conto suo. D'altra parte, l'agricoltura naturale ristretta cerca di seguire la via della natura. Consapevolmente tenta l'organico o altri metodi di seguire la natura. L'agricoltura è così usata per raggiungere un dato obiettivo. Anche se ama sinceramente la natura ed è seriamente intenzionata a unirsi a lei, il rapporto è sempre instabile. La moderna agricoltura industriale desidera la saggezza divina, senza afferrarne il significato. E allo stesso tempo vuole usare la natura. Nella sua ricerca instancabile è incapace di trovare qualcuno con cui accompagnarsi. Il punto di vista ristretto dell'agricoltura naturale dice che è bene per il coltivatore portare materiali organici al suolo, è bene allevare animali e che questa è la maniera migliore e più efficiente per usare la terra. Parlare in termini di esperienza personale va bene, ma se ci si limita a questo, lo spirito della vera agricoltura naturale non può essere tenuto vivo. Questo tipo di agricoltura naturale ristretta è analogo alla scuola di scherma, nota come la scuola del colpo unico, che punta alla vittoria tramite l'abile e consapevole applicazione della tecnica. La moderna agricoltura industriale segue la scuola dei due colpi, che crede che la vittoria può essere raggiunta vibrando il massimo numero di colpi a sbarramento. L'agricoltura naturale pura, invece, è la scuola dei non colpi. Non va da nessuna parte e non cerca nessuna vittoria. Mettere in pratica il non fare è la cosa che il contadino dovrebbe ingegnarsi di realizzare. Lao Tzu ha parlato di natura non attiva, E io penso che se fosse stato un contadino avrebbe sicuramente praticato l'agricoltura naturale. Credo che la via di Gandhi, un metodo senza metodo, che agisce in una condizione mentale di non vittoria e non opposizione, è affine all'agricoltura naturale. Quando uno capisce che si perde la gioia e la felicità nel tentativo di possederle, l'essenza dell'agricoltura naturale è compresa. Lo scopo vero dell'agricoltura non è coltivare le piante, ma la coltivazione e il perfezionamento degli esseri umani. Leggo infine la nota in fondo alla pagina. In questo paragrafo Fukuoka traccia una distinzione tra le tecniche adottate nel consapevole perseguimento di un dato obiettivo e quelle che sorgono spontaneamente come espressione dell'armonia di una persona con la natura, mentre sta dietro alle sue attività quotidiane, libera dal dominio dell'intelletto volitivo. Confusione alimentare. Un giovane, che aveva abitato 3 anni in una delle baracche sulla montagna, disse un giorno: «Sai, quando la gente dice alimentazione naturale, non so più quel che vogliono dire». A pensarci, tutti conoscono le parole alimentazione naturale, ma non si capisce chiaramente che cosa sia in realtà. Ci sono molti che hanno la sensazione che mangiare alimenti che non contengano nessuna sostanza chimica artificiale o additivo sia una dieta naturale. E ci sono altri che pensano vagamente che una dieta naturale sia mangiare alimenti proprio come si trovano in natura. Alla domanda se il fatto di usare il fuoco e il sale nel cucinare sia naturale o innaturale, si può rispondere in tutti e due i modi. Se l'alimentazione dei popoli primitivi, che mangiavano solo piante e animali, che vivevano lo stato selvatico, è naturale, allora un'alimentazione che usa il sale e il fuoco non può essere chiamata tale. Ma se si argomenta che la conoscenza acquisita nei tempi antichi di usare il fuoco e il sale era naturale, destino dell'uomo, allora il cibo preparato in questo modo è perfettamente naturale. È buono il cibo a cui sono state applicate le tecniche di preparazione umane oppure devono essere considerati buoni solo i cibi proprio come si trovano in natura? Possono le piante coltivate essere considerate naturali? Dov'è il confine fra il naturale e l'artificiale? Si potrebbe dire che il termine alimentazione naturale in Giappone sia nato dagli insegnamenti di Sagen Ishizuka nell'era Meiji. La sua teoria fu più tardi raffinata ed elaborata da Sakurazawa e Niki. La via della nutrizione, nota in Occidente come macrobiotica, si basa sulla teoria della non dualità e il concetto dello yin-yang dell'I Ching. Poiché questo di solito corrisponde a un'alimentazione a base di riso integrale, dieta naturale è generalmente concepita come il mangiare cereali integrali e verdure. L'alimentazione naturale, comunque, non può essere riassunta così semplicemente come vegetarianesimo del riso integrale. E allora cos'è? La ragione di tutta questa confusione è che ci sono due vie dell'umana conoscenza: discriminare e non discriminare. Leggo la nota in fondo. Questa distinzione è fatta da molti filosofi orientali. La conoscenza discriminante deriva dall'intelletto analitico, volitivo, nel tentativo di organizzare l'esperienza in una struttura logica. Fukuoka ritiene che in questo processo la persona si distacchi dalla natura. Sono la verità scientifica e giudizio limitati, discussi a pagina 105. La conoscenza non discriminante nasce senza sforzo cosciente da parte della persona quando l'esperienza è accettata come senza interpretazione da parte dell'intelletto, mentre la conoscenza discriminante è essenziale per analizzare problemi pratici del mondo. Fukuoka ritiene che alla fine fornisce una prospettiva troppo angusta. Riprendo. La gente generalmente crede che una definizione inequivocabile del mondo sia possibile solo attraverso la discriminazione. Perciò la parola natura, come viene generalmente pronunciata, sta a significare la natura come è percepita dall'intelletto discriminante. Io nego l'immagine vuota della natura come viene prodotta dall'intelletto umano e la distingo chiaramente dalla natura stessa come viene sperimentata dalla comprensione non discriminante. Se sradichiamo la falsa concezione della natura, credo che sparirà alla radice il disordine del mondo. Nel mondo occidentale la scienza naturale si è sviluppata dalla conoscenza discriminante. Nell'orientale la filosofia dello yin e yang e degli ching si è sviluppata dalla stessa fonte. Ma la verità scientifica non può mai raggiungere la verità assoluta e le filosofie, dopo tutto, non sono altro che interpretazioni del mondo. La natura, come è compresa dalla conoscenza scientifica, è una natura distrutta. È un fantasma con uno scheletro ma senza anima. La natura che è compresa dalla conoscenza filosofica è una teoria creata dalla speculazione umana, un fantasma con un'anima ma senza struttura alcuna. Non c'è modo con cui la conoscenza non discriminante possa essere realizzata, se non con la intuizione diretta. Ma la gente cerca di farla rientrare in una categoria prestabilita, chiamandola istinto. In realtà è una conoscenza che deriva da una fonte che non si può definire in parole. Abbandona la mente discriminante e trascendi il mondo delle relatività se vuoi conoscere il vero volto della natura. Fin dall'inizio non c'è l'est né l'ovest, né le quattro stagioni, né lo yin e lo yang. Quando arrivai a questo punto il giovane domandò: «Allora non solo neghi la scienza naturale, ma anche le filosofie orientali fondate sullo yin e yang e sull'I Ching?» Come espedienti temporanei o come segnali di direzione possono essere riconosciuti validi, dissi, ma non dovrebbero venir considerati come le realizzazioni più alte. Le verità scientifiche e le filosofie sono concetti del mondo relativo, ed è là che conservano la loro verità e il loro valore è riconoscibile. Per esempio, per gente moderna che vive nel mondo relativo distruggendo l'ordine della natura e diffondendo il collasso del suo corpo e spirito, il sistema yin-yang può servire come un indicatore di direzione adatto ed efficace verso la restaurazione delle ordini. Si potrebbe dire che simili vie sono utili teorie per aiutare la gente ad avere una dieta essenziale e concentrata finché una vera dieta naturale non viene raggiunta. Ma se realizzi che l'obiettivo umano vero è trascendere il mondo della relatività e muoversi in un regno di libertà, allora trascinarsi faticosamente attaccati a una teoria è una disgrazia. Quando la persona è capace di entrare in un mondo in cui i due aspetti dello yin e dello yang ritornano alla loro unità originaria, lo scopo di questi simboli finisce. Un giovane che era arrivato da poco disse: «Allora se diventi una persona naturale, puoi mangiare tutto quello che ti pare?» Se ti aspetti un mondo luminoso dall'altra parte della galleria, il buio della galleria dura ancora più a lungo. Quando non vuoi più mangiare qualcosa che ha buon sapore, puoi assaporare il vero sapore di qualsiasi cosa stai mangiando. È facile mettere in tavola i semplici cibi di una dieta naturale, ma quelli che riescono veramente ad apprezzare una festa simile sono pochi. E allora eccoci qua, giunte alla fine di questa quarta puntata dell'audiolibro di La rivoluzione del filo di paglia. E direi che ci risentiremo quindi di nuovo lunedì prossimo, non so se con l'audiolibro oppure no, ma lo scopriremo insieme, direi, fra una settimana precisa. E non ho quindi da augurarvi che una buona serata e di soprattutto continuare a seguire il palinsesto del Wombat. Mi raccomando, rimanete quindi connesse sulle 13.59 am nell'area fiorentina o altrimenti dal sito radiowombat.net per lo streaming e anche per tutti gli aggiornamenti di tutti i podcast delle nuove puntate uscite. E allora buona serata a tutte e tutti, vi saluto con un ultimo pezzo e niente, rimanete connesse, mi raccomando.